Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 20 febbraio 2015, gli integratori alimentari antietà più popolari anche in Italia. Meno chirurgia estetica, più dieta e integratori alimentari. Contro l'invecchiamento, anche nel nostro paese, si stanno diffondendo i ritrovati naturali antietà da bere, mangiare o spalmare sulla pelle. Su questi integratori stanno lavorando le industrie cosmetiche di tutto il mondo e il settore ha creato 8,5 miliardi di euro di utili negli ultimi 3 anni. Grande nemico dell'alimentazione anti-invecchiamento è invece lo zucchero, che infatti viene bandito dalle diete di molte protagoniste dello Star System. Fin qui la notizia del 20 febbraio 2015, ma il futuro ha radici nel presente, in questo 2012. La previsione di una forte crescita del settore alimentare anti-età grazie al matrimonio con l'industria cosmetica è stata fatta dal New York Times qualche settimana fa. Si tratta di un ulteriore sviluppo della nutraceutica, come spiega Cesare Sirtori, presidente della Società Italiana di Nutraceutica e preside della Facoltà di Farmacia dell'Università degli Studi di Milano. Cos'è la nutraceutica? Identifica due settori di prodotti. Uno sono i cosiddetti alimenti funzionali, cioè sono alimenti che in aggiunta al contenuto calorico, strutturale, eccetera, esercitano qualche funzione utile sull'organismo. Esempi, le proteine vegetali, della soia, più adesso del lupino, che abbassano il colesterolo. Gli acidi grassi omega 3, l'olio di pesce, che anche abbassa i trigliceridi e poi aveva azione antitrombotica. Alimenti ricchi in fibre vegetali, selezionati opportunamente per migliorare il diabete, il peso, eccetera. Poi ci sono i supplementi alimentari, che sono molte migliaia. Gli antiossidanti comprendono sostanze come il resveratrolo estratto dall'uva, prodotti derivati da alcune vitamine di uso comune e tante altre sostanze che possono esercitare, come avete sentito, un effetto epigenetico, cioè modificare quell'attacco delle sostanze ossidative sul nostro DNA che ci fanno invecchiare. Ma non sono solo questi antiossidanti l'aspetto più interessante dei nutraceutici, ci sono per esempio i probiotici, sono quindi prodotti molto apprezzati. I farmaci oggi nel mondo vendono per circa 600 miliardi di dollari. Questi prodotti siamo già sui 400 e passa e la salita è continua. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.